anche io, perché infatti qui l'altro giorno stavo parlando, c'era con Franco, il discorso delle frequenze, se puoi usare le frequenze oltre a quelle radioamatoriali. Aspetta, c'è qualcuno che sta chiamando avanti, chi vuole entrare? Gianluca. Chi è? Gianluca. Gianluca è roba. Chi è Luca? Sì, buonanotte, Gianluca. Ho capito male anche tra chi è questo Gianluca? E il signor Gianfranco. Gianfranco da Bru. Sì, già l'avrei sentito altre volte. Ci sentiamo, vai, un giorno ci mettiamo d'accordo, ci rifacciamo un ripasso, dai. Cava, cava, non ci sono problemi, no? Di più, quelle di per me. Dia, ciao, fra le prossime, vai Luca. Ciao, ciao, fra. Ciao, fra le prossime, vai Luca. Sì, ha già salutato. A me Stefano, vedi, stai nel bugaggio. Vai, ha copiato tutto. Vai, ha copiato tutto. Questo l'ho fatto, ho avuto problemi nei piedi, sicuramente. Abbiamo trovato come fanno, come fare. Tanto se fai lo sbaglio che metti, per dire, lo spezzone del coso, dal rosmetro all'amplificatore, scaccia, non succede niente. Cioè vedi che non hai audio, dai, che non sente nessuno, vuol dire che è invertito. Lo sposti, è ciò che è fatto. Va bene. Allora, avanti Gianluca. Che è? Vita. Eia. E beh, via, attaccato. Speciale edizione. Rita, Teresa, attaccato. Nulla, negativo. Non attaccato ancora. Andate a Franco, monta via tutto. Eia, ci avevamo rappato tutto, al cassonetto. E che cazzo da me, via, che faccio io. Ho comprato un microfono per il Lalan 48, special edition. Lali. A che intendi, Giuseppe? No. Davvero? Sì, davvero. Ehi, Ricchia, vabbè. Tu ieri notte non c'è, ci avevamo fatto una bella discussione. No, non lo sto accendendo più la notte, perché ci sono le belve che ogni tanto rompono e allora mi dedico a loro di nuovo. Eravamo perché adesso Franco l'ha portato qua in camera da pranzo, dovevo la stufa e fino alle 11:30 eravamo ieri notte. Oh. Ehi, con Gianluca, poi c'era Pierpaolo, c'era Gianni, Pierpaolo. Ehi. Qualche volta ce la tenderò, dai. Al bimbi c'è l'ore. Eia. Eia. Ti lascio che sono da cucinare, dai. Sentiamo nel prossimo. Va bene, dai. Ciao, Ri, buona cena. Eia, che sta. Che fanno? Che altro? Rita. Eia. Adesso chiamano Pierpaolo. Dimmi Pierpaolo. Basta, basso. Basso? Da cosa è andato? Non sei mai arrivato qua, Santiago Sì, Radio 4, Cosa hai detto? Ha detto che non sei mai arrivato a Santiago Sì, Radio 4, la luce. Vai, l'ho attaccato un linearetto piccolino. Calma. Da cosa mai non arrivo più basso allora adesso? Luca, va per farlo, cosa esce? Vabbè, comunque... È bassissimo, io non ascolto. E fa solo il microfono, che tra non è che le bucce. Va, basso. Vai e parla con con quello di Antonio che è più alto. No, lei è sempre troppo qua a piazzale, ma non è solo buca. Tutto lo saturo, tutto strappato. Oh, vi saluto, dai, ciao ciao. Ciao a me. Mia, ciao lì. Pierpa. E dimmi. Ma come la stai uscendo? Come sto uscendo? Perché? Guarda. No, oh, ti sento male io, buh. Non sei il solito. Mi senti male? Sembri, buh, saturato, buh, tutta la voce strana, cioè. Aspetta un attimo. Ma tipo batterie scariche, mica dove le batterie scariche che non funzionano mica, lo sta saturando. E adesso? Non fa un passaggio lungo, non mi piace, cioè, ti ascoltavo benissimo. È la 48 questo, eh. E con che microfono? Il 3B. Cavolo, dovresti uscire bene, molto meglio. Uscivi che una meraviglia quando ti ascoltavo ultimamente, boh. Ma è già l'antenna, cosa hai fatto? Niente, tutto ciò, ho detto che era 48. Boh, che strano. Ma nella 48, prova a regolare il micchichè della 48, come ce l'hai, la manetta al minimo? La manetta. E quella del Turner? Quella del Turner è a 3. Prova a collegare appena, boh. Sono matto. Ma vai Piggio, torna da dentro. Piggio, aspetta. Luca, come la scusi la Pierpaolo? Ma è forte qua, ma è forte. Devo bianco un attimino. Penso con la mia scusi. Stai fischiando? Come adesso? Ma... Non è male Pierpa, però boh, non sei il solito, ti ascoltavo molto meglio, il segnale è buono, c'è quasi 9.10, 9.5, dai, picchino, però la radio non mi piace, ti ascoltavo molto, ma molto meglio. Non è la solita radio, è il 48 questo, capito? E appunto, la 48 funziona bene, non lo so, e cosa utilizzavi prima, perché? Radio. Non la puoi provare l'altra radio adesso? Questo che la posso provare. Ti sento diverso dal solito. E se mi dai tempo un minuto e mezzo la provo. E c'è qualche altro sotto avanti? Chi era che vuole entrare? Attenzione canale 20, chi vuole entrare avanti con la buonasera. Ah, mi sente? Allora riprova per me. Ah? Fa un passaggio lungo. Non so che cos'è l'apparato. Questo parlo americano. No, no, molto migliore questa, molto più chiara. L'altra V, sembra che stessi saturando. Però è 48. È 48 con microfono di tavola. Ma questo o l'altro? No, questo penso che parlo americano. L'altro, diciamo, l'anno prima, il lato è 48. Oh, che strano. Sulla 48 esce una bomba. Questo che sto utilizzando io è un Turner, per dire. Con l'altro vabbè, una stazione base, non c'entra niente, però io ho usato quella 48 esce una meraviglia, ma strano, boh. Con quello che sto utilizzando adesso sta andando benissimo, va bene. Ma che cosa aveva? Era forte o che cosa aveva, boh? Oh, sembrava quando parli con la bocca attaccata al microfono, sai come è Saturno sembravi, boh. Non lo so, Luca dice di no, ma a me da queste parti mi davi quell'impressione. Perché è fortissimo, anche basso, tende a ricupire. Vabbè, questa è più forte come radio, sicuramente molto più forte di prima, ma poi è pulita, nitida, non ti posso dire niente in negativo, va benissimo. Così è anche, diciamo, a metà, così è tutto volume. Prova un po' tutto volume. Ah, vabbè, sei troppo alto, abbassa un pochettino, no? Così va benissimo, cioè almeno la parte mia la radio va benissimo. Ascolta che sto parlando quanto è lungo il mio braccio, perché mi avvicino pure, vedi? Prova a parlare un po' più vicino. Se a metà sto parlando vicino nel senso 30 centimetri, là. Non so cosa dirti, perché l'apparato è un ottimo apparato e deve funzionare per forza bene, il microfono è ottimo anche quello, strano che non sia adatti con quello tuo, ma non è stato modificato l'apparato. No, niente modifica, originale. Questo da parte mia è molto ma molto migliore, poi Luca, chiedi conferma a Luca se a lui ti ascolta meglio quella da 48. Io l'ho sempre guardata la 48 che come modulazione è uno dei migliori, per non dire il migliore, dei baracchini stiamo parlando. Però questo che c'hai adesso sul baracchino mi sembra migliore a me. Sarà cercato migliore questo, ma forse era troppo alto, non so. Luca, com'è? Luca, sì. Questo è un po' qualche volta in più ci dà. Che cosa? Questo che c'hai adesso, qualche watt in più ti tira? Sì, qualche cosina sì. La parte mia va meglio, molto meglio questo. Strano, perché anche con la 48 ti avevo sentito, ma ultimamente stavi andando bene, però questo mi sembra migliore oggi rispetto a quello là. Non lo so, mi vuoi sentire col microfono normale sul 48? Sì, ma allora quello che non riesco a spiegarmi è che c'hai un ottimo microfono, un ottimo apparato che ho già provato io perché ce lo vuole identico e funziona benissimo, però io non riesco a sentirti bene, mentre con quest'altro apparato che c'hai ti sento bene perfettamente. Vabbè, se vuoi lo provo con un altro microfono, la 48 mi dici se va bene, un attimino solo. Prova, vabbè, non c'è problema. Luca, chi c'è sul 20? Attento alle canali 20? Luca, stavo cercando Teresa. Dimmi. Vai 23. niente, sto uscendo. Sì, sì, tranquillo. Questo che stavo usando adesso lo sai? Tu hai l'MBP4 modificato. Cioè un po' adesso il livello? Non ti ho capito, dimmi. Alza un po' il livello microfonico, così ti faccio la regolazione giusta. Ah, questo qua adesso è a 5. Ma che distanza sei dal microfono? 30 centimetri. Allora, parla così, fammi un passaggio lungo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Scendi un po', scendi un po'. Prova a alzare un po'. Sollevare? Sollevare un pochettino. Ecco così, a 7. No, no, stai fischiando di brutto. Ma non è che c'è roba attaccata vicino, qualche cuffia o qualche altro parlante? E poi siamo nei 20. Torniamo su 10, dai, che è meglio, che sono accordato su 10. Aspetta, è il 10 allora. No, sono tornato. Hola. Vorrei sì.